L'ultima puntata prima della pausa estiva per visionari, come ogni giovedì dalle 14 alle 15 il cinema su Radio Onda Rossa. Ritorneremo poi dopo 2-3 settimane in onda giovedì 29 agosto prossimo. Allora, per quanto riguarda i contatti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. C'è poi la pagina della trasmissione sul sito internet della radio, che è ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari. Lì trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi, giovedì 1 agosto, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il cinema sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e quant'altro. Poi il link per riascoltare la puntata precedente e tutto l'archivio del 2013 e del 2012. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, ripeto, ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Allora, siamo in collegamento con il Cine Club de Tour, che di tanto in tanto sentiamo, questa volta per parlare della rassegna al Pigneto Spazio Aperto, al Parco del Torrione Prenestino qui a Roma, a partire da oggi fino al 13 agosto, una rassegna appunto curata dal De Tour. Pronto, ci sei? Ciao, sono Cristina, ciao a tutti. Ciao Cristina, ragazzi. Allora, dici un po' di queste due settimane di cinema. Allora, il De Tour, ospitato dal Pigneto Spazio Aperto in collaborazione col Dal Verme, Muzza e Le Mura, presenta quest'anno una mini arena di 13 giorni con delle chicche, diciamo, ben studiate anche per i tempi stretti che abbiamo, perché poi subito dopo le proiezioni ci sono i concerti fantastici del Pigneto Spazio Aperto. Sì. Quindi allora abbiamo una delle chicche è il Best Film Festival, che apriamo oggi col festival. C'è la selezione della prima edizione del primo festival ideato e curato da persone con la sindrome di Asperger, e queste serate sono dislocate un po' durante tutta la rassegna. Poi abbiamo il 2 agosto Palestina per principianti in collaborazione con la rete romana di solidarietà per il popolo palestinese. Palestina per principianti, educazione sentimentale di un bassista rockabilly di Francesco Merini e il Ludel Bellos, e introduce Valeria Belli. Sì, entrambi questi lavori li abbiamo già ospitati anche a Visionare. Bravissimo, sì. Bravissimo Federico, sì. E infatti lo riproponiamo perché è stato uno dei, diciamo, dei film che più ci ha dato soddisfazioni durante l'anno. E poi abbiamo Impact du Cinéma il domenica 4 agosto in collaborazione col Film Plan. E c'è un incontro con Silvia Tarquini, che presenta il suo libro su Marc Chalon, quindi Marc Chalon Impact du Cinéma, Esilio, Memoria, Utopia, è edito da Art Vigiland, che si trova online. E poi abbiamo 3 giorni di esplorazioni video con Cecil Velozovsky, Lisa Reiana, che è una artista maori, e Margarita Paiva. Poi il 9 agosto l'Art Filmmaking in Rome, tra cui Attraversare Roma di Haute Forel, che è un altro dei nostri film che è piaciuto moltissimo al nostro pubblico, quindi volevamo ripresentarlo. E poi 11 e 13 agosto Carta Bianca al De Tour, il programma completo con le sinossi e le indicazioni sui film è il cinedetour.it, come sempre. Sì. I concerti e tutto il resto al Pigneto Spazio Aperto è pignetospazioaperto.it. Inizio proiezioni ore 20:30, ingresso gratuito. Poi una piccola cosa, allora il De Tour cambia casa, perché dobbiamo lasciare, sì, siamo pronti, quasi pronti a lasciare, anche se c'è una piccola possibilità che ci possano far restare dove siamo. Cerchiamo casa e poi c'è una bella lettera, insomma, a tutti i soci scritta veramente bene da Sergio Ponzio, che invito tutti a leggere, anche perché lui è molto più bravo di me con le parole. E quindi ci sarà bisogno di una mano da parte di tutti, qualsiasi cosa, da vecchi mobili, appena sappiamo dove, vecchi mobili, sostegno psicologico, dipingere le pareti, vi faremo sapere, vi aggiorniamo al prossimo incrocio. Senti, tendenzialmente però rimanete in zona, visto che già siete al secondo spostamento, sempre sulla stessa via. Guarda, sì, questo era successo tempo fa, ma probabilmente lasceremo proprio Monti, che si è un po' infighettata probabilmente. Quando siamo arrivati, quando sono arrivato lì, era molto popolare, era un gran bel quartiere. Poi la gentrification sta lavorando anche lì. Però certo, a noi sarebbe piacere stare per tanti motivi, poi se non si può ci stiamo cercando anche zona San Lorenzo, pensa. Senti, grazie Federico. Di cosa, figurati. Senti, allora ci sentiamo per le prossime novità, a questo punto date queste scadenze che hai tirato fuori. Dai, vi aggiorniamo. Va e bene. Seguiteci sul sito, ripeto, www.cinedetour.it, con tutte le novità e gli aggiornamenti. Benissimo. Del nostro randagismo, nomadismo forzato. Senti, davvero grazie a tutti ragazzi, e grazie poi del sostegno di tutte le persone che ci seguono sempre, ci danno un sacco di forza in questa situazione particolare, sì. E a volte paradossale. Dai. Cristina, un abbraccio e a presto. Grazie da parte di tutti del Detour, grazie a tutti. Aspettiamo il segno spazio aperto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Cristina, per quanto riguarda la programmazione organizzata dal Cine Club de Tour alla rassegna Pigneto Spazio Cinema all'aperto al Parco del Torrione Prenestino qui a Roma dal primo da oggi fino al 13 agosto. Con noi Federico Carra, regista del documentario Piani Migranti. Ciao Federico, ben ritrovato. Ciao, a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Allora, parliamo di migranti, Bassa Maremma, un racconto di poco più di mezz'ora, se non sbaglio. Dici un po' di questa storia, Federico. Sì, Piani Migranti è un documentario che ho fatto, finito di girare proprio a luglio, in realtà per un festival che si chiama Migrandola, che è una festa dei migranti che fanno a Scanzano in Maremma, e è un po' un documentario sull'immigrazione fatto per far conoscere un po' meglio la realtà degli emigrati, soprattutto a chi magari meno ha opportunità di occuparsene. E è stato proiettato lì al festival, è venuto molto bene, quindi sto cercando di promuoverlo anche in altre occasioni. Il video è un video molto semplice, che tratta un po' delle problematiche quotidiane dell'immigrazione, e riguarda un po' tutto quello che è dal viaggio fino ai problemi di permessi di soggiorno, e problemi con migrazioni all'interno dell'Europa. È un video generale di 34 minuti, appunto, quindi molto breve e generale, a cui poi potrà seguire con le prossime edizioni del festival anche qualche video più approfondito. Mm-hmm. Federico, allora intanto volevo chiederti quante storie di migranti hai potuto parlare, e poi come si è svolta questa ricerca, nel senso, li hai convocati o hai seguito il loro quotidiano? Sì, no, questo qui in realtà è un ritratto collettivo fatto di piccoli racconti dei singoli migranti, sono una decina di persone che sono state raccolte dall'Arci, perché l'idea in realtà appunto degli organizzatori di questo festival sono l'Arci Magrame di Scanzano, e abbiamo organizzato un pranzo in un casale di campagna e abbiamo iniziato un po' a intervistarli. Il video in realtà è girato tutto in un pomeriggio, sì. e poi montato in modo che ne venga fuori un discorso un po' collettivo. Sono una decina di immigrati che vengono sia dall'Est Europa che dal Marocco, dall'Egitto, dal Ghana uno anche, e raccontano un po' quelle che sono le esperienze di arrivo. Poi in realtà questi qui sono tutti approdati appunto nel paese di Scanzano, che è anche un paese abbastanza sensibile riguardo a questo, a queste tematiche. Infatti raccontano anche qualche esperienza positiva della, dei servizi e dell'accoglienza che hanno avuto, che forse non, non vale per tutta l'Italia. Quindi per lo più Africa ed Est Europa. E che realtà lavorativa hanno trovato? Ma in realtà appunto la maggior parte, il sottotitolo ho voluto chiamare appunto le mie, gli immigranti nel periodo della crisi, perché proprio quello che emerge è questa difficoltà con il lavoro attualmente, e anche quando sono arrivati 2, 3, 4 anni fa, o alcuni che sono arrivati da più tempo l'hanno molto spesso perso mano a mano. Molto interessante in realtà è la storia di una moldava, Galia, che racconta un po', che forse anche quella che ha un apparato culturale un po' maggiore, racconta un po' la sua storia da laureata in medicina, che è costretta a pagare anche cifre abbastanza esorbitanti per venire e poi trovarsi a lavorare in nero, non senza alcun diritto, senza la possibilità di tornare nel suo paese a trovare i parenti, perché appunto comunque irregolare anche se comunque lavorante. E poi anche, vabbè, un'esperienza un po' abbastanza tragica di cui accenno appena, che prima o poi vorrei anche approfondire con un altro video. Queste, diciamo, le esperienze lavorative sono più che altro appunto esperienze di base, quando sì, in realtà c'è gente anche molto preparata e laureata. Questa è una delle cose un po' che emerge da questo documentario. Federico, il titolo Piani Migranti fa pensare ad un progetto. Per molti migranti la terra, l'Italia è solo un terreno di passaggio per altri paesi. In questi 10 casi invece... Sì, ma anche in questi 10 casi in realtà c'è anche chi dice sono venuta per sollevare la situazione della mia famiglia nel paese di origine e poi mi sono trovata bene, avrei voluto che anche la mia famiglia mi raggiungesse, vorrei trasferirmi qui, però poi con la crisi non c'è lavoro, non c'è questa possibilità né io di ritornare nel mio paese né di far venire la mia famiglia. Questo avviene in molti casi anche di gente di una certa età. Ci sono casi sì sicuramente diversi, però molti sono venuti anche non volendo, non avendo l'idea dall'inizio di venire in Italia a vivere, ma semplicemente costretti un po', diversi dall'Africa per esempio lavoravano in Libia, hanno subito situazioni molto pesanti a livello umano e lavorativo, e la prima occasione gli si è creata, sono riusciti a venire in Italia e si sono ritrovati qua, trovando tra l'altro una situazione non esattamente come se l'aspettavano, perché parlano anche un po', io ho fatto alcune domande sull'immaginario che hanno dell'Europa dai loro paesi di origine, insomma... Diciamo, da un lato c'è un apprezzamento e sicuramente delle condizioni migliori, però ci sono anche delle delusioni rispetto all'immaginario che avevano prima della partenza. Ecco, proprio a questo proposito, Federico, parlavi all'inizio dei costi molto piuttosto onerosi per il viaggio, sì, per arrivare qui, e poi la crisi legata quindi alle difficoltà del lavoro. Quali sono le altre problematiche che sono uscite fuori dalle interviste di cui ti hanno accennato? Ma molto spesso sono anche problematiche burocratiche, nel senso che comunque molti di loro sono venuti, hanno iniziato a lavorare, poi si è interrotto il contratto in attesa di un nuovo contratto che gli era stato promesso, magari sono stati fermati e sono stati costretti a rimpatriare. Cioè molto quello che emerge è anche il problema della cosiddetta clandestinità, che non è soltanto come si pensa un venire qui senza nessuna certezza, ma molto spesso ci sono dei periodi veramente di stasi, come ci sono anche per gli italiani, però per loro magari nel passaggio tra un lavoro all'altro vengono fermati, scade il permesso di soggiorno e sono costretti magari a rimpatriare per poi riavere un altro contratto e ritornare. Questi sono anche costi e sono cose abbastanza allucinanti, come si può immaginare. Senti, quali sono i settori lavorativi dove hanno trovato con più facilità impiego? Questi, essendo in Maremma, la maggior parte sono o di assistenza agli anziani e ai malati nell'ospedale, oppure nelle campagne, nell'edilizia. L'edilizia, diciamo, negli ultimi 3 anni si è totalmente fermata, quindi rimangono più che altro lavori manuali e un po' di assistenza che vanno anche scemando. Senti, per far fronte alle loro difficoltà, si sono in qualche modo auto-organizzati o fanno riferimento a strutture, associazioni? No, in realtà ci sono delle strutture, c'è uno sportello per l'immigrazione che funziona fortunatamente bene, lì c'è appunto questo circolo Arci che cerca di dare una mano, una signora che cerca di fare un grande lavoro di informazione e sostegno. Tra di loro devo dire che hanno, un po' come dappertutto, tra i diversi gruppi etnici non c'è una grossa comunicazione. L'importanza di questo video, ma soprattutto del festival, è stata proprio questa, il cercare comunque, facendo una festa dei migranti in cui vengono coinvolti tutti in progetti comuni, che uno era questo del video, l'altro è anche un progetto musicale, per esempio un DJ set multietnico in cui ognuno porta le sue musiche e si ballano tutti insieme. E un altro, altri sono degli spettacoli teatrali, c'era quest'anno una compagnia di Genova multietnica, diciamo il senso è anche cercare appunto di creargli un terreno comune con cui confrontarsi e scambiarsi anche tutte le informazioni per muoversi in questa giungla burocratica che li riguarda. Senti Federico, prima lo accennavi, ma il progetto è ampliare questo documentario o farne una serie di questo formato in futuro? No, diciamo che a me interesserebbe farne una serie, perché questo, diciamo, appunto è un piccolo documentario di 34 minuti, il primo è rimasto, diciamo, fatto vedere quali sono i possibili argomenti anche a me stesso, insomma, che poi questo argomento lo conoscevo ma non avevo una conoscenza così approfondita, un po' i singoli argomenti su cui scavare, vorremmo, ne stavo parlando l'altra volta, approfondirli mano a mano nelle varie edizioni di Migrandola, per quindi la vedo forse un po' più come una serie, interessante. E per la fruizione che tipo di diffusione hai pensato? La diffusione, io adesso sto cercando, diciamo, il primo intento era quello di proiettarlo lì, perché comunque era un video fatto per il festival. Adesso sto cercando un po' di far girare la notizia, cercando di proiettarlo in festival, rassegne, circoli, associazioni, insomma, cercarlo di farlo vedere il più possibile, perché penso che abbia comunque un carattere anche molto, una semplicità che può arrivare dove magari altri film molto più approfonditi, interessanti, però magari non possono arrivare. Sì. Hai un riferimento internet per questo? Riferimento internet, vabbè, il mio è, si possono cercare informazioni sul sito kiwido.it oppure cercarlo anche su Facebook, Piani Migranti o Federico Carra. Benissimo. Federico, allora io aspetto le prossime novità, nel frattempo un abbraccio e grazie. A risentirci presto. Va bene, grazie. Ciao. Federico Carra, regista del documentario Piani Migranti. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, siamo in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. In collegamento con Carlo Chatrian, neo direttore della 66esima edizione del Festival del Film Locarno dal 7 al 17 agosto. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Carlo. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, questo era l'ultimo giovedì utile prima dell'inizio del festival, che è la prossima settimana. Uno dei festival storici, 66esima edizione, quali sono le caratteristiche che hai voluto mantenere e invece le novità che hai apportato per questa edizione, Carlo? Il Festival di Locarno, come avete detto, appunto è un festival che ha una lunga storia, però è un festival che nello spirito cerca di essere giovane, anzi che nei suoi obiettivi da sempre a quello di guardare al futuro, cioè guardare a quei registi, a quegli attori, a quei film che sono proiettati verso l'avvenire, quindi che diventeranno magari grandi, grandissimi, sì, negli anni successivi. Queste sono un po' le linee del festival, che giusto per ricordare, negli anni ha scoperto registi come Spike Lee, Jim Jarmusch, o anche magari nomi meno noti come Kiarostami o Panahi dell'Ondiraniana, per intenderci, fino più recentemente ai registi cinesi o di Hong Kong. E queste sono un po' le linee che mi hanno mosso, ecco. Adesso dirvi quali saranno i grandi registi dei prossimi anni lo svelerà la storia, però abbiamo cercato di comporre un programma che contemplasse tanto dei nomi che magari ai cinefili già raccontano qualcosa, quindi quest'anno la presenza asiatica è molto nutrita, ci sono registi di una certa età come Kiyoshi Kurosawa o Aoyama Shinji, un regista coreano che si chiama Hong Sang-soo, e a fianco anche altri nomi che vengono dall'Europa e che sono tutti in qualche modo dei registi, a mio modo di vedere, dei film coraggiosi che ci raccontano il mondo in cui viviamo e l'epoca in cui viviamo. Oh, quindi provenienze da un po' tutti i continenti, questa è una delle caratteristiche del festival. Sì, beh, un festival internazionale, l'obiettivo dei festival è anche, com'è l'obiettivo del cinema, far viaggiare, certo, lo spettatore, farlo viaggiare attraverso lingue, culture, modi di racconti diversi, e ovviamente il cinema è un veicolo attraverso cui una cultura si racconta, lo si fa anche attraverso una prospettiva particolare che è quella di una persona o di un gruppo di persone, e quindi è importante che ci sia questa varietà, appunto, non solo in termini geografici ma anche in termini estetici, se così vogliamo dire, cioè di tipologie di racconto. Carlo, hai parlato prima di un'attenzione alla realtà circostante da parte degli autori in programma. Ecco, ci sono delle tematiche forti che sono più ricorrenti nei lavori che presenterete? Ci sono alcune linee che però non erano state decise a priori ma che si sono poi verificate. Ecco, i criteri di selezione sono quelli artistici, quindi sì, cerchiamo di andare, sì, a selezionare dei film soprattutto per i concorsi che ci hanno convinto a livello artistico. Poi a posteriori magari si possono trovare alcune linee alcuni fili conduttori, e magari il pubblico e i professionisti che verranno a Locarno ne rinveniranno altri. Una delle linee dalle quali che mi piace comunque accennare, che è anche questa un po' rivendicata, perché abbiamo messo un film in pre-festival, che è un film con Vinicio Capossela di un regista che si chiama Andrea Segre, si chiama Indebito, racconta un viaggio nella vicina Grecia attraverso una musica ribelle che si chiama Rebetiko. Ed è un viaggio sia nella musica ma soprattutto nel paese, in questo paese che negli ultimi anni ha dovuto affrontare una crisi durissima e cercare di sopravvivere in uno stato, in una condizione molto difficile. E proprio la questione dell'identità nazionale, o di come questa identità sovranazionale che si chiama Europa si rimodella, si riformula anche cercando di subire degli urti anche violenti da parte di crisi finanziarie, è uno degli elementi che attraversano il festival, mm-hmm, attraverso opere che raccontano un paese nello specifico o che raccontano piccole comunità, ma che da delle realtà specifiche, appunto anche a volte micro, riescono ad avere delle visioni invece più ampie, da dare e a fornire degli elementi di riflessione che possono toccare tutte le persone. Questo, mm-hmm, è un elemento forte, sì, e a questo elemento si collega forse l'altro filo conduttore che si può rinvenire, che è la questione delle famiglie, ecco, in modo, sì, curioso, tanto che vengano dall'estremo oriente come dall'America o dalla nostra Europa, diversi film affrontano la questione delle famiglie, sono delle famiglie moderne in cui la composizione padre, madre, figlio, figlia non si ritrova più, o se si ritrova diventa in qualche modo una forma quasi di parodia, e così è ad esempio il film in Piazza Grande che si chiama We Are the Miller, dove Jennifer Aniston e Jason Sudeikis compongono una famiglia immaginaria per portare dal Messico agli Stati Uniti un grosso carico di droga, quindi una situazione abbastanza paradossale. Ecco, hai fatto cenno a Piazza Grande, che è l'arena più grande d'Europa, se non sbaglio, per capienza spettatori. E due cose volevo chiederti, Carlo. Intanto il numero delle opere che presenterete, e poi, soprattutto per chi ci ascolta, come è strutturato il festival, se è suddiviso in sezioni? Sì, il festival ha alcune sezioni, avete citato la Piazza Grande, che non è solamente un luogo fisico, cioè la piazza centrale di Locarno, che durante il festival viene equipaggiata per diventare una grandissima sala a cielo aperto, ospita 8.000 persone, uno schermo che è alto per dare dimensioni come un palazzo di 3 piani, e però la cosa che colpisce alle persone che vengono è, penso, oltre alla perfetta qualità del suono e soprattutto dell'immagine, la qualità del suono, perché la piazza è come un lungo corridoio che riverbera perfettamente il suono. Ecco, in Piazza Grande verranno fatti vedere i film ogni sera, quindi 10 film, uno per sera, più 5 doppie proiezioni. In Piazza Grande vengono fatti vedere film a grande pubblico, We Are the Millers, ma iniziamo per esempio con un blockbuster americano, campione di incassi, proprio uscito in questi giorni, che si chiama Two Guns. Poi abbiamo un concorso internazionale che racchiude 20 titoli, quasi tutti in prima mondiale, e anche qui appunto l'idea è di contemplare una varietà di proposte, quindi abbiamo registi noti o meno noti al grande pubblico, come penso Emmanuel Mouret o Claire Simon per la Francia, Pippo Del Bono la coppia Giannichi e Ricci Lucchi per l'Italia, o ancora magari registi che appunto non saranno noti ma sono sicuro che lo diventeranno nei prossimi anni. Mm-hmm. Poi abbiamo una terza sezione che invece è veramente dedicata alle scoperte, perché è solo dedicata a opere prime e seconde, quindi ad esordi, al lungometraggio o all'opera seconde, che contempla quest'anno 16 titoli, di cui 14 opere prime, e che è un po' proprio, si chiama Cineasti del Presente, che è un proprio la sezione in cui il festival cerca di perlustrare le nuove correnti, i nuovi modi di racconto, i nuovi generi del cinema. E poi, come delle grandi manifestazioni, abbiamo un fuori concorso con opere invece che cercano di dare altre prospettive sempre su questa arte che viene definita giustamente un'arte del presente. Mm-hmm. E poi una parte che fosse importante a Locarno, ed è importante ricordarla, perlomeno per me è molto importante, sono anche le sezioni retrospettive, cioè una delle caratteristiche penso forti del programma di Locarno, non solo di quest'anno, è quella di cercare di tracciare un parallelo, un dialogo tra il passato e il presente, anche con lo scopo un po' di sollevare o di rinnovare la questione della memoria, che mi sembra molto centrale. Quindi quest'anno abbiamo la grande retrospettiva di Locarno dedicata al maestro della commedia George Cukor, quindi non so, il regista di tutte le grandi attrici dell'epoca classica, Marilyn Monroe, Greta Garbo, Catherine Hepburn, ma anche registe, anche attrici europee, non solo americane. Noi tra l'altro avremo a Locarno Jacqueline Bisset, che è americana, che è inglese, e Anna Carina, che è francese, che saranno ospite del festival. E poi un omaggio consistente a un viaggiatore, a un francotiratore del cinema moderno, che è Werner Herzog, anche lui regista tedesco che però da diversi anni vive in America. Mm-hmm. Più altri omaggi che il pubblico spero scoprirà. Bene. Carlo, in chiusura, noi come trasmissione ci occupiamo con piacere in particolare del linguaggio documentario, che è un tipo di formato che riesce sempre meglio e sempre di più a realizzare una felice commistione tra realtà e finzione, ed è una realtà estremamente vivace non solo in Italia, e quindi volevo chiederti se anche per voi c'è un'attenzione riguardo al documentario, per l'appunto. Beh, il documentario è uno dei punti forti del Festival di Locarno da tanti anni, sì, è probabilmente il primo festival che ha inserito documentari in concorso. Quest'anno ne abbiamo ben 4 nel concorso internazionale, come avete detto voi, insomma sono opere in cui la narrazione segue più la realtà, ma in cui comunque c'è una parte di ricostruzione abbastanza forte. Abbiamo dei documentari in Piazza Grande, tra l'altro il film di chiusura è proprio un documentario che racconta le avventure di giovani scolari che dall'Africa o in Patagonia devono compiere dei percorsi molto lunghi per arrivare a scuola, quindi permette un po' anche di riflettere su un gesto che nella nostra società appare scontato, ma che forse appunto andrebbe rivisto e riconsiderato. Abbiamo diversi documentari nel concorso Cineasti del Presente e anche fuori concorso. Penso anch'io che il documentario sia uno dei generi o dei modi di raccontare che oggi vivono una vera e propria rinascita, che vengono anche riconsiderati in termini anche produttivi e finanziari, perché presentano, forse è un modo di racconto più adeguato alla nostra società, al mondo in cui viviamo, che è così pieno di racconti che sono solo da prendere, che sono solo da cogliere, e e anche il cinema con le sue strutture leggere oggi si adatta molto bene a questa forma di racconto. Bene, per la programmazione, per chi vuole saperne di più, Carlo, possiamo dare come riferimento il vostro sito internet, giusto? Assolutamente, assolutamente, il sito è www.pardolive.ch. Benissimo. È un sito che è aggiornato giorno per giorno, che oltre, come tutti i siti insomma, oltre ad avere informazioni ha anche contenuti e quindi interviste che saranno realizzate durante il festival, estratti delle masterclass che ogni giorno insomma gli ospiti del festival terranno, e oltre ovviamente alle proiezioni con gli orari e i luoghi. Bene Carlo, io ti ringrazio e buon lavoro a questo punto. Grazie a voi, grazie a voi. A ci presto. Vediamo Locarno, ciao, arrivederci. Carlo Chatrian, direttore della 66esima edizione del Festival del Film Locarno, dal 7 al 17 agosto. Maria Martinelli, coregista del documentario Viaggio nel mondo dell'estorsione, l'anti-racket, che è uno dei 10 documentari dell'Emilia Romagna portati a Salonicco, giusto Maria? Sì, sì, sì. È un'occasione che abbiamo avuto tramite appunto la DER, questa organizzazione regionale di documentaristi, e abbiamo avuto questo invito e siamo riusciti appunto a mandare al Festival di Salonicco, al mercato appunto quei nostri documentari. Per cui una cosa positiva, proprio perché insomma il fatto della distribuzione credo che sia la cosa più importante per chi fa documentari terrorizzato, certo, all'idea che gli rimangano nel cassetto, giustamente. Certo. Allora, esatto, noi ci eravamo già sentiti per un tuo precedente lavoro, mi dicevi delle difficoltà rispetto a questo, a un lavoro controcorrente come Viaggio nel mondo dell'estorsione. Sì. Ecco, dici un po' di questa storia. Ma sì, è stato diciamo un documentario particolare perché parla di un tema famoso, no? Perché il racket, l'anti-racket, tutti giustamente è un tema molto visitato, però poi noi l'abbiamo voluto un po' raccontare dalla parte del collettivo, dalla parte delle associazioni che fanno una politica molto particolare, cioè contro i riflettori, cercano di lavorare nell'ombra, per cui diciamo non abbiamo un documentario estremamente spettacolare ma più diciamo sensibile, ecco, per cui è stato difficile anche in questo senso poter raccontare senza violare un po' questa loro etica. Perché come associazioni loro sono molto belle, molto forti le loro dichiarazioni, dicono noi spingiamo, cerchiamo di coinvolgere gli imprenditori e di che cosa cerchiamo di convincerli? Denunciate e vedrete che non è che finite sui giornali, non è che vediamo la scorta, non vi succede niente, più siamo e meglio è. Diciamo una forma tranquillizzante dell'antimafia, ecco, e del racket, cioè cosa che infatti il normale commerciante, il normale imprenditore invece cerca, cioè non tutti cercano la ribalta, è chiaro, no? Uno su pochi forse ha anche bisogno così di esporsi, gli altri vorrebbero fare le cose ma diciamo più sottotono, ecco. Il documentario racconta questo, ci siamo spostati da Palermo, Lamezia Terme, per cui siamo insomma abbiamo Napoli, viaggiato un po' in questo mondo dove il pizzo insomma ancora è molto presente, molto forte. Ecco, come era nata l'idea e poi come in base anche alle cose che mi hai appena detto, come avete strutturato il lavoro, questo lungo giro un po' in tutta Italia? Sì, esatto. Ma guarda, l'idea è nata perché è nata da io insieme a Vincenzo Basile, che infatti è scrittore di libri e giornalista, e insieme abbiamo ideato questa cosa proprio anche perché c'era questa conoscenza e diciamo questa affinità di pensiero con Tano Grasso, che è stato per tantissimo tempo proprio presidente dell'associazionismo in Italia. Tra l'altro uno dei fondatori proprio dell'associazionismo e dell'anti-racket a Capo d'Orlando, diciamo, quando è nata per la prima volta, come dice il documentario, è nata per la prima volta quest'idea di unirsi e pensare che insieme si poteva sconfiggere infatti questa forma terribile che è il pizzo. E da lì siamo partiti, per cui abbiamo visitato le associazioni, quella di Lamezia Terme mettiamo che è da molto tempo che è presente. Ti faccio un esempio: mentre giravamo nel 2011 stava nascendo l'associazione di Barcellona, che è un posto vicino a Palermo, cioè non c'era neanche, cioè ci sono dei posti dove non ci sono neanche, non c'è nessuna forma di contrasto, diciamo, a quello che succede, alla mafia, tra virgolette, in questo caso il racket, che è la sua forma, diciamo, più visibile, più forse anche più sottile, più infilata nel territorio. Quella dove la mafia dice questo è il mio territorio, no? Racconta così il documentario, per cui ti chiedo il pizzo. E, per cui, come dire, si ha l'impressione a livello nazionale che sia sgominato, poi invece tu inizi a frequentare questi posti e capisci che proprio non è vero, cioè ci sono alcuni momenti di spettacolarità in cui si ha l'impressione che siamo riusciti a vincerci da questa cosa, ma c'è tutta una parte d'Italia invece che non lo è proprio così visibilmente. Poi quest'idea, chiaramente, che il racket sta venendo al nord, per quello l'abbiamo intitolato capitolo 1, nell'ipotetica ipotesi di fare un capitolo 2 al nord, ecco, però per il momento non si sta muovendo ancora nulla. Maria, poco tempo fa, poche settimane fa, qui a Roma ho visto uno spettacolo che sta girando l'Italia, Padroni delle nostre vite, che racconta la storia di un abbastanza nota, di un imprenditore calabro, e la cosa che si è ribellato comunque, aveva un cantiere ereditato dal padre, ha sempre vissuto, ha cominciato a lavorare giovanissimo, insomma, un cantiere poi vissuto da dentro, che dava lavoro a decine e decine di operai, e a un certo punto si è ribellato all'Andrangheta e con tutto quello che ne è conseguito dalla perdita del cantiere, ad altre noie che hanno riguardato tutta la sua famiglia. Ma la cosa che mi ha più colpito di questa vicenda, tra l'altro questo spettacolo lo ospiteremo in radio prossimamente, è che quest'uomo si è ritrovato schiacciato tra la criminalità organizzata e le istituzioni. Certo. Questo significa non solo noie burocratiche per quanto riguarda le istituzioni, ma una vera e propria connivenza della politica con la malavita a più livelli. Certo, no. Questo sicuramente. Io devo dirti la verità, le associazioni, la cosa interessante è proprio questa, le associazioni hanno questo ruolo nel documentario. È descritto, ma non in modo pesante, molto bello secondo me, perché è descritto proprio dalle persone che lo fanno e che sono state a suo tempo minacciate, che poi hanno deciso di entrare nelle associazioni, perché le associazioni sono fatte di persone che hanno detto no, per cui sono imprenditori, commercianti, conoscono esattamente, no? Una di queste è la Fucito, per cui che è da tanti anni che è stata coinvolta, e proprio lei nel documentario dice: noi, qual è il grande lavoro che facciamo? Che vengono da noi. Poi noi insieme al commerciante valutiamo, cioè la relazione non è mai una relazione diretta, la persona che viene minacciata, che deve pagare il racket, con le istituzioni reali, carabinieri, polizia, cioè capisci, l'associazione fa da cuscinetto ed è molto positivo, perché una persona ha veramente paura, perché ha paura anche per lui, perché ha pagato metti per tanti anni. Dentro c'è un'intervista a Todaro che dice: io ho pagato per tantissimi anni, perché non e adesso lui è vicepresidente giù con Addio Pizzo a Palermo, e anche hanno appena creato questa associazione dei liberi professionisti, che poi ti rubo un minuto e ti racconto, ma lui dice appunto: ho pagato da tanti anni, poi l'associazione mi ha rassicurato, perché capito, tu hai anche paura, esatto, adesso vado ai carabinieri, poi cosa succede? Cioè, come dici tu, hai paura anche di quello che sta dall'altra parte, che non sai mai com'è. Invece l'associazione è questa terra, questa striscia, secondo me, di terra, dove veramente puoi valutare con calma, prima di esporti, quali sono tutte le mosse da fare, perché in effetti... E tra l'altro loro, è molto bello, Dio Pizzo a Palermo, ora stanno facendo tutto questo discorso con i liberi professionisti, perché... giustamente dicono: ma noi spingiamo i commercianti a denunciare, spingiamo gli imprenditori a denunciare, poi abbiamo il fior fiore dei liberi professionisti, vabbè, dice, non parliamo dei politici non vogliono toccare l'argomento, ma i liberi professionisti che invece vivono pesantemente, capisci? Qui si parla di concussione, cioè proprio nel loro lavoro ogni giorno questa presenza che diventa poi un racket, un pizzo, una tangente, chiamala come vuoi, alla fine è sempre qualcosa che tu devi dare sotto minaccia, insomma. Sì, ecco, per sì, cui sì. Si lanciano anche in quel settore e ha detto che fanno una fatica terribile, perché quando io li incontro speravano di arrivare a 1000 firme, 1000, e ne hanno raccimolate solo 300. Cioè, per cui il documentario dice: ma se questi sono i numeri, no, cioè anche, cioè non riusciamo a capovolgere questa situazione. Ecco, è un po' questo il contenuto triste. Senti Maria, Viaggio nel mondo dell'estorsione, l'anti-racket, dove sarà possibile vederlo e su cosa state lavorando rispetto a una fruizione? Siamo veramente, ecco, questo è l'altra nota dolente, facciamo una gran fatica, perché comunque il documentario, anche secondo me, nonostante affronti un tema così, ecco, importante, riesce ad essere fruito anche molto bene. Per fortuna abbiamo questa cosa in Emilia Romagna, per cui ha fatto il giro delle sale in primavera, sì, per cui è riuscito a muoversi. Poi è andato l'anno scorso al Festival Trame, che c'è sempre, che tengono alla Lamezia Terme, e a Salonico. Ora in Italia, tu come sai, quando facciamo un documentario fa un'uscita e poi è bruciato, io dico questo non è giusto, ecco. E in Italia ancora di più è diventato terribile tentare di far vedere le cose, ma perché i festival ti dicono se non è una prima, cioè te tendono a non prenderti. Un circuito di sale non c'è, se non quello che lavoriamo, che facciamo noi, e la televisione, come sai, gli spazi sono rimasti proprio oramai, sì, 16 sì, sì, spazi in tutto l'anno, cioè per cui. E questo è il grave, grave problema, però non molliamo, continuiamo, noi continuiamo a proporlo, adesso è andato a Salonico, per cui anche sottotitolato, diciamo abbiamo quasi più richieste di festival anche piccoli all'estero che quasi in Italia, che sì, difficile, insomma, sì, trovare sì, rassegne, ecco, trovare queste strade, ecco. Sì, sì, sì. Tra l'altro, comunque, adesso lo metteremo, sì, finiamo il 2013 e poi sceglieremo probabilmente questa strada che tu sai, distribuiti dal basso, distribuzione dal basso molto bella, dove sì, poi alla fine utilizzeremo il web, ecco, che credo che sia la strada per i documentari, ecco. Certo. Maria, avete anche un riferimento internet per il documentario? Per il momento non abbiamo fatto il sito, no, è soltanto sul sito della Start che l'ha prodotto, ecco, come scheda, eccetera. Però penso che a breve metteremo proprio dei riferimenti e questa possibilità poi in futuro, esatto, di scaricarlo, ecco. Però sul, diciamo, c'è la scheda su cosa è stato, ecco, sul sito della Start, www.startcinema, che l'ha prodotto. Ecco. Benissimo. Maria, a questo punto ci sentiamo per le prossime cose. Certo, Federico, ti ringrazio tantissimo e saluto tutti, ringrazio tutti. Grazie. Ciao, ciao Maria. Ciao, ciao, ciao, ciao. Maria Martinelli, co-regista del documentario Viaggio nel mondo dell'estorsione, l'anti-racket. Al telefono Martino Locascio, regista del documentario L'uomo che sembrava un taxi, presentato alla quinta edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo pochi giorni fa. Martino, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, tutto giusto quello che hai detto prima, complimenti. Tra l'altro mi ha dato il tuo riferimento proprio Antonio Bellia, che dirige il festival, lo abbiamo sentito in più occasioni. Mi interessava questa storia che hai voluto raccontare, allora dici di che si tratta. Sì, allora io 3 anni e mezzo fa circa sono andato in Madagascar, ho vissuto là un anno perché sono stato capo progetto di un intervento di cooperazione internazionale, perché diciamo di mio faccio l'operatore sociale e mi diletto ogni tanto a fare dei lavori video, insomma fare un po' cinema, parola grossissima, enorme. E così ho incontrato anche Rabè al centro dell'Alto Piano Malgascio, una situazione che non conoscevo, cioè il fatto che in questa città il mezzo di locomozione più utilizzato da tutti, senza distinzione di ceto sociale, è il risciò, il Puspus si chiama lì Madagascar, ed è trainato per lo più dalle braccia e dalle gambe delle persone, dei malgasci. Il Velopus, cioè quello fatto con la bici, è un'acquisizione tardiva degli ultimi 2-3 anni, ce ne sono ancora pochi, costano ancora tanto per loro, e ho deciso di raccontare la storia di uno di questi tirer de Puspus. Questo, ecco. Tra l'altro la bicicletta che trasporta turisti se ne cominciano a vedere anche a Roma. Infatti, perché siamo indietro noi. Senti, quindi credo che ci sia un po' un'economia che ruota intorno a questa attività. Assolutamente, considera veramente che dovete considerare che l'equivalente non tanto dei nostri taxi, ma qualcosa di più, perché lì non avendo quasi nessuno, lì è la seconda città del Madagascar, però non avendo quasi nessuno la macchina, si spostano tutti con mezzi pubblici, e questo è il mezzo pubblico per eccellenza. Infatti tu trovi in questi risciò, in questi pus-pus, trovi 3-4 persone ammassate col poveraccio che lì in salita tenta di farli arrivare. In economia, diciamo, di sussistenza, la chiamerei io, di sopravvivenza. Ci tira il pus-pus e qualcuno che non è riuscito a trovare altro, e sono tantissimi, e questo è uno dei motivi. Per esempio nel documentario Thomas racconta che adesso è difficilissimo fare questo lavoro, perché chiaramente tutti tentano di farlo, un po' come i nostri parcheggiatori, no? Sì. Che non avendo più niente da fare in giro, cosa possono fare? Si mettono lì e chiedono del denaro. Ma l'economia non è solamente un'economia di sussistenza, ma purtroppo un'economia anche che alimenta, per così dire, una sorta di sfruttamento, perché ad Antirabben ci sono solamente 2 noleggiatori di Puspus, nessuno dei tirer di Puspus ce n'ha uno di proprietà, perché non potrebbero mai permetterselo, e dunque chiaramente quando 2 solamente per migliaia di tirer di Puspus possono fare i prezzi, chiaramente non dico che c'è un rapporto, come dire, mafioso, io sono di Palermo, conosco bene di cosa parlo, non è sicuramente quello, ma certamente è un modello anche relazionale, non solo economico, che non è dei migliori. Ho tentato di raccontare in parte anche questo, e anche l'ho collegato a un progetto di sviluppo con forme di microcredito per 6 tirer de Puspus, anche attraverso il documentario, che ha avuto anche questa funzione attiva, di azione, ecco. Ecco, infatti volevo chiederti proprio se ci sono se stanno facendo qualcosa per ovviare a questa problematica, e però tu mi hai accennato a questo progetto. Ecco, in cosa consiste, Martino? Sì, allora, inizialmente non mi era chiarissimo, poi mano a mano l'ho costruito via via sempre più, sia lì che qui a Palermo, in Italia. Attraverso il documentario e anche attraverso altri eventi ho raccolto dei fondi per tali da comprare 6 Puspus. Ora, questi 6 Puspus con la formula del microcredito sono stati assegnati a 6 tirer de Puspus. Io sono ritornato il mese scorso e proprio io personalmente ho selezionato tra tutti questi queste centinaia di Puspus, ho selezionato 6 persone, poche ovviamente, però è un nucleo interessante che poi potrebbe, adesso per spiego perché, potrebbe dar luogo a un'amplificazione del progetto. Ho selezionato queste 6 persone che hanno aderito, abbiamo fatto un contratto vero e proprio, cosa per loro inimmaginabile, e c'è un legame diretto tra le persone che hanno donato dei soldi e questi 6 tirer de Puspus, un contratto vero e proprio e una formula per cui nel giro di 8-9 mesi loro dovrebbero riscattare e diventare per la prima volta proprietari di qualcosa, e proprietari sicuramente del Puspus. Questo cambia ovviamente le loro vite. Che cosa che ho fatto, e chiudo, ho scelto 6 persone che provengono tutte dallo stesso villaggio vicino a Antirabben, a 3 ore da Antirabben, che è il villaggio dove io ho conosciuto Tomai, dove è girato parte del documentario. In questo modo, siccome tutti e 6 hanno un piccolissimo centimetro quadrato di terra che tentano di coltivare, con i soldi in più che riusciranno a guadagnare, chiaramente 6 sembrano pochi, ma in un villaggio diventa un'economia del villaggio che si modifica profondamente. Quando i soldi ritorneranno nell'arco di 8-9 mesi, se tutto va bene, questi stessi soldi serviranno per comprare altri 6 più spus e alimenteranno, diciamo, un processo a spirale teoricamente infinito. Questo è il mio delirio. Bene, e per quanto riguarda il documentario, dove sarà possibile vederlo? Se sarà possibile vederlo in proiezioni o festival, sì, o in televisione? Sì, io ti dico la verità, siccome sono molto scadente in tutto il marketing e la comunicazione delle mie cose, ti dico che l'ho mandato a 2 festival, però a tutti e 2 festival l'hanno preso. Questo Sicilia Ambiente, che tra l'altro è uno dei miei festival preferiti, davvero lo dico sinceramente, perché riescono a fare delle cose straordinarie. Antonio Bellì è riuscito in 5-6 anni a fare un'operazione, secondo me, almeno in quella parte della Sicilia, notevolissima. E poi al Sole e Luna Festival, cioè a settembre, nella seconda settimana di settembre, è stato preso anche lì in concorso. Speriamo, facciamo le dita anche là. E senti, online c'è qualche punto di riferimento? Hai un sito? No, allora no, online rispetto al film non ho ancora messo nulla. L'ho fatto, ti dico la verità, un po' per scaramanzia rispetto a questi due festival. Appena passerà anche il Sole e Luna Festival, sicuramente lo metterò, ancora non so bene in che forma, però sicuramente lo lancerò sì, in modo tale che possano vederlo più persone possibili. Bene, allora Martino, io aspetto prossime novità, un abbraccio e a risentirci presto. Va bene, grazie tante e vi ringrazio davvero di cuore, perché far sentire un pezzo di Madagascar in Italia è la cosa che in questo momento mi fa più felice, al di là di me, al di là del cinema, cioè far sentire che c'è qualcosa e qualcuno lì che può avere voce anche a tanta distanza. Grazie. Bene, sono contento. Ciao Martino, a presto. Ciao. Martino Locascio, regista del documentario L'uomo che sembrava un taxi. Abbiamo con noi Fabio Mancini, che è curatore della rassegna Doc 3 su Rai 3. È cominciata qualche settimana fa, se non sbaglio, andrà avanti fino a settembre. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Fabio. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie di averci invitato. Insomma, sì, è vero, abbiamo cominciato il 27 giugno e andremo avanti quest'anno fino al 26 settembre. Sì. Allora, sarà un appuntamento settimanale. Quante opere state presentando e poi anche quali sono stati i criteri di scelta? Allora, sono 14 documentari. Andiamo in onda il giovedì in una seconda serata spinta, diciamo, sì, verso la mezzanotte meno 10. Doc 3 cerca di fare un po' quello che può essere un viaggio intorno al mondo, sia come tematiche, sia come geograficamente e mentalmente, possiamo dire, sì, così, sì. E quindi veramente proponiamo uno spaccato veramente interessante di quello che può essere il documentario adesso. Criteri di scelta: è un documentario fondamentalmente narrativo in qualche modo, sì. Ne vediamo tantissimi durante l'anno, insomma, per preparare questa messa in onda, e un po' ci aiutiamo cercando, insomma, come diciamo qua in redazione, cercando un po' il gerundio, cercando di vedere un documentario che si fa sotto i nostri occhi, insomma. Tra le opere scelte un ampio respiro internazionale, però ci sono anche diversi lavori italiani. Sì, assolutamente, proprio quello di stasera, per esempio, proprio stasera giovedì abbiamo Tina, che è di Anna Vinci, che è un lavoro sulla vita di Tina Anselmi, un documentario che non è solamente così un biopic, ma Si entra e si esce continuamente dalle scelte, dalla vita privata di Tina Anselmi, e come invece questo suo essere donna, ma anche soggetto politico, ha influenzato le sue scelte, qual è stato il suo ruolo in una ampissima pagina della storia italiana, come politico e come donna, perché insomma non va dimenticato anche questo aspetto. Sempre italiano lo stesso, la settimana prossima, giovedì prossimo, ci sono le ferie di Liku, che è un documentario di Vittorio Moroni, che segue Liku che abita proprio a Roma e del Bangladesh, lavora a Piazza Vittorio e torna a casa per sposarsi. Mm-hmm. Ovviamente dovrà essere giudicato dalla famiglia della promessa sposa, e quindi questo lavoro italiano avrà così il suo peso nella sua scelta matrimoniale, e poi torneranno insieme a Roma e vedremo com'è difficile tenere uniti due mondi così differenti in un posto che non è più Roma, non è più Bangladesh, è Piazza Vittorio, ed è un lavoro molto interessante. Sì, sì, sì. Fabio, tra i temi forti che sono trattati da questi lavori, c'è qualcosa che ti ha particolarmente impressionato e di cui vorresti parlare? Ma guarda, noi abbiamo cercato, ecco, anche di raccontare qualcosa che a prima vista può essere distante, ma poi attraverso il racconto scopriamo che invece parla di qualcosa che c'è molto vicino. Ti faccio l'esempio di altri documentari, come può essere, sempre ad agosto abbiamo White Black Boy, che è la storia in Tanzania di un bambino albino. Gli albini in Africa subiscono una doppia discriminazione, perché portano sfortuna nel villaggio, ma non solo. Il loro corpo viene usato per le pozioni magiche, quindi sono rapiti e uccisi. Questa è la storia di Shida, che è un bambino, e viene mandato in un collegio insieme a bambini che albini non sono, e attraverso la scuola, attraverso il confronto con gli altri, si scoprono tutta una serie di dinamiche che sembrano lontanissime, sembrano in Tanzania, ma in realtà sono molto più vicine a noi di quanto pensiamo, insomma. Mm-hmm. Riguarda un po' i rapporti di tutti i giorni. Un altro film che ci terrei a segnalarti è L'amore secondo Enea, ed è un viaggio che parte dall'Italia. Enea è un ragazzo autistico e ha 27 anni ed è pronto per innamorarsi, per avere una relazione completa, ma non si riesce, non trova interlocutori, e quindi gli amici lo aiutano, cercano in Italia, non trovano, finché non partono proprio in pulmino verso la Germania, dove esistono delle terapiste sessuali per disabili, e vabbè, non vi dico se trova l'amore, ma trova qualcosa di molto speciale, che intanto possiamo dire che qui non c'è, e sarebbe bello che ci fosse, insomma. Certo. Fabio, a questo punto mi viene pure da chiederti un'altra cosa, visto che insomma curi questa rassegna Doc 3 su Rai 3, lo stato dell'arte e il rapporto tra il documentario e la TV. Allora, questa è una domanda abbastanza impegnativa, perché documentario significa, lo sai bene, insomma, significa tutto. Andiamo dal facocero a quasi un capolavoro filmico. Io penso che sia uno stato, nonostante tutto, salutare. Io ne vedo tantissimi e sono dispiaciuto di avere solo 14 spazi a disposizione. Spero che presto saranno di più. Le catene produttive italiane, le film commission regionali, ma anche gli aiuti europei ci sono molto attenti, sono secondo me anche molto, come posso dire, molto pronte a rispondere alle istanze più diverse, quindi veramente non ci sono pregiudizi rispetto alla storia che si vuole raccontare. Mm-hmm. Stanno uscendo in sale i documentari. Io facciamo così, vorrei rovesciare la situazione, vorrei dire che il materiale c'è, dobbiamo attivarci noi, dobbiamo cercarli, dobbiamo sostenerli se li troviamo in sala. Dobbiamo farci, non lo so, due tazze di caffè e aspettarli quando passano in TV, però io sono molto fiducioso, sono molto contento. L'età veramente si è abbassata anche dei documentaristi, stanno cambiando moltissimo i linguaggi. Ed è bene che ci sia spazio per tutto, dal documentario più rigoroso a quello più sperimentale. E gli spazi televisivi si stanno restringendo o ampliando? No, io direi che ci sono. Le piattaforme si sono anche moltiplicate, l'attenzione al documentario c'è, insomma basta dare un'occhiata un po' a palinsesti, aprendosi ancora di più ad altre piattaforme. Spero anche per quello che riguarda il mio programma e di aumentare assolutamente la messa in onda, però ecco, penso che fondamentalmente questo, che abbiamo bisogno di educarci un po' a guardarlo il documentario, mentalmente forse puoi pensare che sia respingente o faticoso, in realtà invece è un mondo molto affascinante, quindi diciamo che è un lavoro che possiamo fare in parallelo spettatori e operatori del settore. Ecco, proprio a proposito del tuo programma, i riferimenti sono, per quanto riguarda internet, il sito della RAI? Sì, assolutamente, abbiamo il nostro sito, è www.doc3.rai.it. Lì potete trovare ovviamente il palinsesto aggiornato, ci sono la riproposizione poi in streaming di alcuni dei documentari andati in onda, ci sono le stagioni passate e tutte le informazioni, poi ovviamente una pagina Facebook, social, per cercare poi tutte le, e per intervenire insomma in positivo e negativo, insomma. Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti, c'è un rapporto diretto anche con il pubblico? Assolutamente, perché comunque noi riceviamo mail, riceviamo interventi, ecco, diciamo che non, lo specifico del documentario non finisce con la messa in onda, questa è una cosa che a me fa piacere, li seguiamo per molto tempo, un anno, due anni, finché, quando sono coproduzioni e non sono acquisti, e poi ci fa piacere che continui questa come posso dire, questo colloquio. Noi cerchiamo veramente di rispondere a tutti, rispondiamo anche ai documentari che non prendiamo, quindi è un lavoro un po' importante che però genera un bacino di energia che funziona molto, quindi siamo molto soddisfatti di questo. Bene. Fabio, a questo punto io spero di risentirti più in là, visto che adesso oggi è l'ultima puntata prima della pausa estiva, riprendiamo giovedì 29 agosto, ma insomma credo ci sarà tempo e modo per riparlare di questa rassegna, visto che finisce verso la fine di settembre. Verso la fine settembre, finiamo il 26 settembre, quando volete siamo a vostra disposizione. Settembre posso dirti che è una coda molto interessante, perché avremo proprio un documentario in cerca della sinistra. La sinistra dov'è? Di Gustav Höfer e Luca Ragazzi, ed è un viaggio alla ricerca un po' di cosa può significare sinistra oggi. Loro lo fanno a loro modo e una maniera molto interessante, hanno un modo di girare molto interessante, e penso che sia un documentario che parli un po' a tutti noi, insomma, è giocato molto sulle contraddizioni, ma poi fa pensare parecchio. Quindi bene, quando volete siamo qui. Un abbraccio Fabio, a presto. A voi, buon lavoro, ciao. Ciao, ciao. Fabio Mancini, curatore della rassegna Doc 3 su Rai 3. Oh, ce l'abbiamo fatta. Paolo Pisanelli, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti, come va? Bene, bene. Io ti farei fare subito un bilancio di questa importante decima edizione del Cinema del Reale a Specchia, in provincia di Lecce. È stata un'edizione importante. Tracciaci un bilancio, Paolo. Sì, il sottofondo sono una pipineta, quindi insomma sono le cicale o i grilli, chi è che canta di giorno? Le cicale, sì, io mi confondo sempre. Allora, no, è stata un'edizione veramente bellissima, Diciamo che al di là dei numeri, quanta gente, perché effettivamente ogni anno Cinema del Reale un po' ha un'affluenza sempre maggiore, ma non è tanto quello, è proprio il piacere delle persone che sono venute, così che a volte ora decidono pure di venire proprio in quel periodo perché sanno che c'è Cinema del Reale. E quindi insomma noi questo ci fa molto piacere, ci fa piacere che sia una festa di sguardi, quindi incontri tra cineasti, ma anche cineasti, filmmaker, però anche artisti, ci sono video installazioni, fotografi che esponevano, quindi non so, bello tutti questi incontri. Abbiamo avuto qui Vinicio Capossela con Andrea Segre, che ci hanno fatto questo regalo di anticipare il film rebetico In debito, quello che aprirà Locarno. Sì, ne abbiamo appena parlato col direttore di Locarno, insomma, di questa presenza, anche lui l'ha sottolineata, insomma, con piacere questa presenza di Segre e Capossela. Oggi ci sentiamo perché c'è stata un'iniziativa durante questa decima edizione di cui poi mi avete dato conto, di questo manifesto del cinema indipendente a più firme, insomma diversi ospiti di peso lo hanno sottoscritto, e allora ti direi di parlarci un po' di questa iniziativa. Sì, l'hanno sottoscritto appunto Segre, Capossela, Daniele Vicari, Costanza Quadriglio, Pippo Mezzapesa, Cecilia Mangini, che è la nostra colonna fondante, e anche Michele Riondino, per il cinema indipendente, perché noi sosteniamo sacrosanta questa battaglia sul tax credit, che sicuramente è un sistema che aiuta il cinema, però aiuta soprattutto poi il cinema, quello delle grandi produzioni, perché spesso dei tanti, 600 si dice, siamo i numeri di documentari prodotti a basso o bassissimo costo in Italia l'anno scorso, la maggior parte non è che utilizza questo tipo di agevolazioni, e visto che forse insomma ormai il fuso o i finanziamenti del ministero sono diventati cosa proprio quasi rara, ecco, io credo, tutti noi autori che siamo qui a Specchia, siamo stati a Specchia, bisogna puntare molto invece che ci siano delle regole trasparenti che vadano nella direzione dell'acquisto, della programmazione, della diffusione, della distribuzione televisiva e cinematografica del cinema indipendente, del cinema del reale, dei film documentari, perché noi crediamo che poi questo tipo di cinema sia quello che veramente si sta imponendo per innovazione, per sperimentazione di linguaggi, ed è il cinema che noi da tanti anni ormai cerchiamo di sostenere, però è anche il cinema che poi racconta le storie che viviamo, le storie di oggi, che ha una relativamente insomma facilità di essere realizzato e di raccontare le storie, quindi questo lo troviamo riflesso anche nelle scelte, sono scelte importanti quelle del Festival di Venezia di quest'anno, no? Dove troviamo Gianfranco Rosi, dove troviamo Rossetto, la Costanza Quadriglio, dove troviamo insomma una serie di contributi importanti di persone che praticano questo cinema indipendente, questo cinema del reale, e questo però bisogna creargli un mercato, perché in Italia si va sempre avanti per amici, per conoscenze, non ci sono mai regole certe, non si sa perché un film viene pagato 100 e uno 1000, non si sa perché come si accede a volte anche soltanto a mostrare, non ci sono spazi per esempio per programmare un film, un film di cinema indipendente o cinema del reale che duri 90 minuti, 70 minuti, perché devono durare, essere fatti tutti a spezzatino a 48, quei pochi che vengono comprati, perché sono veramente pochi e a volte non vengono nemmeno programmati, quindi c'è bisogno che di tutte queste enormi risorse che vengono bruciate nelle televisioni di Stato, intanto per cominciare, e in una distribuzione che veramente anche quella è un qualcosa che viene gestito da pochi e a cui non si riesce ad accedere con un minimo di criterio, ecco, cioè noi vogliamo che si ragioni di queste cose con il ministro Brai, che evidentemente ha ereditato una poltrona su cui sono stati fatti gli sfracelli e dei massacri culturali. Vorremmo che, così come deve ripensare il discorso sul tax credit, qua bisogna ripensare delle regole che valgano per tutti, mm-hmm. e che soprattutto sostengano la sperimentazione e l'accesso anche a una distribuzione per chi non ha grandi risorse ma ha grandi idee e comunque sperimenta il linguaggio, mm-hmm. e in questo ripensare, secondo me, non bisogna dimenticare che siamo degli analfabeti a livello di audiovisivo in Italia, mm-hmm. che è insegnato a Teramo e insegno nei corsi di formazione all'università, ma sinceramente, cioè, siamo senza strutture, senza mezzi, non lo so, di tanti soldi che sono stati spesi negli anni passati, poi vedi che le università non hanno nemmeno a volte delle strutture di base, sì, sì. O ormai non hanno nemmeno i corsi da dedicare alla cultura, diciamo, cinematografica, dell'audiovisivo, della comunicazione, quindi se ci stanno la parte pratica non esiste, mm-hmm. Poi bisogna andare a New York a studiare per chi ce la può fare, o andare in Germania o da altre parti, capito? Mm-hmm. Paolo, che tipo di passi avete pensato? Una diffusione, articolazione di questo manifesto, delle scadenze pubbliche, degli incontri? Beh, intanto sì, abbiamo pensato che questi giorni c'è stato un po' un cataclisma di notizie brutte, pesanti, quindi forse, diciamo, in questo momento stiamo aspettando un pochino anche, cioè, che ci si ritrovi forse a Venezia. Ci sarà, a Venezia è stata annunciata una protesta di un certo tipo. Io penso che comunque intanto stiamo raccogliendo le adesioni anche per chi non c'era alla festa di cinema del Reale, certo. Ma di qua comunque abbiamo tanti amici, compagni di percorso che ci sono stati nelle passate edizioni e ora li sentiamo, perché crediamo che deve essere condivisa da più autori, da più persone, e probabilmente non soltanto dal filmmaker o dal regista, ma anche da tanti montatori del suono, da tanti direttori della fotografia che comunque fanno il cinema indipendente, ecco, questo credo che sia veramente importante. E poi sì, bisogna cercare di unire le forze. Noi in Italia, sai, siamo specialisti invece del dividerci sulle battaglie, bisogna cercare di invece unirci e però cercare di considerare le esigenze di tutti, non soltanto del cinema, quello, diciamo, più strutturato, più ricco, quello che ha le grandi produzioni, grandi distribuzioni, ma anche il cinema delle pulci che hanno la tosse, ma che sono visionari queste pulci e spesso, insomma, colpiscono nel segno, ecco. Allora, a questo punto aspettiamo delle novità in questo senso. Paolo, io nel frattempo ti abbraccio e spero di risentirti presto. Grazie Federico, ti chiedo anche a te, che sei, insomma, una di quelle persone che noi sentiamo al fianco da tanto tempo, che da sempre ragioni e coinvolgi poi sul tema del cinema indipendente, del cinema reale, di diffondere questo. Sì. È stato chiamato anche manifesto, insomma, però intanto è una serie di punti che sono per il cinema indipendente, poi un manifesto strutturato sicuramente dovrà essere argomentato in maniera più profonda, ma noi intanto vogliamo dire che esistiamo e chi governa a livello culturale questo paese deve deve ragionare anche con noi e anche con tutti quelli che diciamo magari a volte non hanno una forza così di risorse, però hanno una forza intellettuale con cui bisogna misurarsi, e nel bene di tutti. Questa è un po' l'idea che ci muove. Certo. Un abbraccio e a presto, Paolo. Grazie, ciao, ciao, ciao a caro, tutti. Ciao. Bene, Paolo Pisanelli per quanto riguarda il manifesto del cinema indipendente, e con lui ci salutiamo perché comincia a fine settimana la pausa estiva di Radio Onda Rossa e Visionari torna giovedì 29 agosto. Questa era appunto i riferimenti per quanto riguarda questa trasmissione, sono l'indirizzo di posta elettronica che è visionari@ondarossa.info e poi la pagina su internet, sia sul sito della radio che è ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia la pagina su Facebook di Visionari.